gira il mondo e io ci sono dentro, cercando in ogni cosa, tutte le razze, tutte le facce, quell'onda, onda, onda, onda che mi ha sbattuto qua. Il ritmo del 2000, l'adrenalina pura, il ritmo da paura. Passo a nuotare, annegare, nuotare, nuotare, nuota, nuotare, affondare, nuotare, nuotare l'onda, nuotare, annegare, nuotare, annegare, nega, nuotare, affondare, nuotare, nuotare l'onda. Ad imprecare la realtà, volerla trasformare qua. Rimuova bella, rimuova cosa. Dalla pelle passa al cuore, dal ritmo nascono alternative nuove, ma può negare il senso e le parole, stimola la mia voglia di cambiare. Nuotare, annegare, nuotare, nuotare, nuota, nuotare, affondare, nuotare, restare in onda, nuotare, lottare, lottare, lottare, lotta, nuotare, affondare, nuotare, restare in onda. Vai!